abbiamo pensato come gruppo di docenti qui all'Università di Bologna di alzare la voce per cercare di sensibilizzare le nostre istituzioni accademiche alla necessità di chiedere forte e immediatamente un cessate il fuoco. Come sappiamo a Gaza sono ormai più di 8.000 le vittime dei bombardamenti israeliani, ci sono migliaia di feriti ancora sotto le macerie, gli ospedali sono al collasso, entra cibo centellinato, la striscia è stata ripetutamente sconnessa dal resto del mondo, non c'è internet, non ci sono connessioni telefoniche, la situazione è veramente catastrofica e quindi abbiamo pensato che fosse necessario davvero non rimanere in silenzio. Nelle ultime ore abbiamo visto anche un'ennesima strage nel campo profughi di Jabalia, che impressione le fa? Profondissima tristezza e rabbia, proprio perché appunto il campo profughi di Jabalia, come gli altri campi profughi, sono abitati da comunità e popolazioni già enormemente sofferenti, già enormemente provati da 56 anni di occupazione e 70 di vita da sfollati. Sono luoghi in cui le ferite sono aperte e profonde e non so come i sopravvissuti riusciranno a superare il trauma di questo ennesimo colpo fortissimo che si è abbattuto su di loro e sul resto della popolazione di Gaza, che ricordiamo è una popolazione per metà di profughi del 1948, cioè di persone e famiglie che furono costrette a fuggire o più che costrette a fuggire anche cacciate dai loro villaggi, dalle loro case nel 1948, quando fu istituito lo Stato di Israele. E oltre alla presa di posizione formale, l'università cosa potrebbe fare per aiutare appunto la popolazione di Gaza e per fermare questa guerra? Credo che sia importante che come università e come luoghi deputati all'analisi critica, all'analisi dei fatti, non all'appoggio verso l'una o l'altra parte, ma proprio come luogo deputato alla costruzione del sapere, l'università sia uno dei luoghi fondamentali per chiamare in causa e riproporre l'importanza del diritto internazionale, del rispetto delle regole del diritto internazionale. E credo che dalle università, e come sta già avvenendo nel resto del mondo, nonostante i tentativi così di silenziare o comunque di intimidire chi sta alzando la voce, l'università debba e rimanga uno dei luoghi fondamentali per riportare veramente il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite al centro di questo conflitto e degli altri conflitti del mondo. E in un paragrafo della vostra petizione chiedete anche forme di pressione accademica e di disinvestimento da società che finanziano l'occupazione. Sì, certo, questo è anche una richiesta che abbiamo fatto nostra, visto che ormai nel resto del mondo ci sono istituzioni, associazioni, persino chiese, la Chiesa metodista americana e altre, alcune comunità e chiese quacche, sindacati e addirittura anche appunto molte università, associazioni professionali. Recentemente l'Associazione degli Antropologi Americani ha approvato una risoluzione per il boicottaggio e il disinvestimento dalle istituzioni accademiche israeliane. Noi chiediamo semplicemente di ritornare a fare luce sulla possibilità di forme pacifiche di pressione affinché l'occupazione dei territori occupati palestinesi possa cessare. Quindi abbiamo pensato che mettere l'accento anche sul fatto che nelle università in tutto il mondo ci sono investimenti, ci sono produzioni di sapere che sono spesso anche ancorate alla macchina militare, ci sembra fondamentale chiedere un'analisi di quello che anche l'Università di Bologna sta producendo e riniziare dalle forme appunto pacifiche di pressione e di sensibilizzazione verso il fatto che anche noi nella nostra vita quotidiana, anche noi dai luoghi dove ci troviamo, possiamo contribuire o a porre fine al conflitto con le varie forme che abbiamo a nostra disposizione, oppure in modo silenzioso rimanere paralizzati e continuare nelle nostre ricerche e in alcuni casi in alcune istituzioni accademiche anche proprio appoggio e sponsorizzazione e forti legami tra apparato appunto universitario e macchina di guerra e militare. Secondo lei la comunità internazionale sta facendo tutto il possibile per fermare questo conflitto? Assolutamente no, la comunità internazionale è responsabile, complice del bombardamento che non si sta fermando neanche quando l'evidenza dice che non è questa la soluzione. Non è possibile pensare, se non davvero pensando di sterminare un'intera popolazione di 2.300.000 persone, di risolvere gli attacchi che ci possono essere, che ci sono stati nel passato, che ci sono stati dal 7 di ottobre, semplicemente annientando una popolazione intera e con una punizione collettiva che è di una violenza inaudita. La comunità internazionale non facendo praticamente nulla, quasi tutti, almeno la comunità internazionale è occidentale, la maggior parte dei paesi europei, con l'eccezione di Francia e Spagna, si è astenuta dalla risoluzione dell'Assemblea Generale che chiedeva il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti pongono sistematicamente il veto al Consiglio di Sicurezza per rendere appunto applicabili già le risoluzioni già approvate nel corso delle decadi che chiedono la fine dell'occupazione, e in queste ore si sta forse assistendo ad una delle più cruente accentuazioni di questa doppio peso e doppia misura nei confronti dei palestinesi, per cui si sentono voci, soprattutto nel governo americano, dai policymaker americani, in cui veramente la disumanizzazione dei palestinesi è così lampante. Abbiamo sentito Hillary Clinton ieri dire: siamo contrari al cessate il fuoco perché sarebbe un regalo a Hamas. Stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di un bambino ogni 10 minuti che perde la vita sotto le bombe israeliane in questo momento. Certo. Non c'è via di uscita se non attraverso la strada del diritto internazionale, e la comunità internazionale applica due pesi e due misure quando si tratta dei palestinesi. Il diritto internazionale è carta straccia.